La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, e questo 5 maggio, lo ricordate, il Manzoniano e fu come immobile. E buon ascolto e grazie naturalmente per l'ascolto in diretta o in podcast qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia e vi dice subito di che cosa parliamo oggi in questo appunto giovedì 5 maggio. Parliamo di un libro che a me, devo dire la verità, insomma, l'ho letto e ne ho apprezzato la vigoria, per così dire, perché è come assistere a un incontro di pugilato. L'incontro di pugilato non è riservato al lettore, ma è riservato alla testa e allo stomaco del lettore. Vi dico subito che è un libro il cui autore, la cui modalità di scrittura e le tesi che vengono descritte, sostenute, e la pluralità di ricostruzioni di vicende negli anni che vengono proposte, e non piacerà all'oggetto del libro, perché il libro si intitola, l'editore è Chiare Lettere, Co-op Connection, e il sottotitolo è molto chiaro nel dire il libro che taglio ha. Co-op Connection, nessuno tocchi il sistema, i tentacoli avvelenati di un'economia parallela. È un libro che si divide in tre parti più una introduzione. L'introduzione vale da sola un Perù, come si direbbe, perché l'introduzione è una fonte che ha lavorato e operato all'interno del mondo delle cooperative italiane per decenni in Emilia-Romagna, di cui viene tutelato l'anonimato, ma che viene ringraziato inequivocabilmente lui anche all'inizio del libro dall'autore, perché è evidente che la fonte ha consentito una buona parte di ciò che viene scritto dopo nel libro. E questa introduzione, queste lunghe dichiarazioni in forma di intervista, ma insomma ricostruzioni storiche degli ultimi decenni di vita segreta, quello che non viene detto, dietro le modalità di operative del sistema delle cooperative, beh, già quello, cioè le prime pagine fino a pagina 20, vi danno un antipasto di che cos'è il libro. Poi il libro si divide in tre parti. C'è una prima parte intitolata Il sistema, che descrive, per così dire, dall'inizio fino al governo Renzi, in sintesi sono 80 pagine, da pagina 20 a pagina 114, un centinaio di paginette, ciò che bisogna sapere su il fondamento dei riferimenti politici, dello sviluppo nel tempo, delle specializzazioni, costruzione e grande distribuzione del movimento cooperativo. Nella seconda parte, e sono un altro centinaio di pagine fino a pagina 215, si descrivono alcune vicende clou per capire snodi fondamentali della storia recente del movimento cooperativo, e quindi Consorte, l'idea di fare la grande banca assicurativa legata a Lega Coop, la grande municipalizzata rossa era e che cosa ci ruota intorno e come e perché ha a che fare con le cooperative, il regolamento di conti tra cooperative rosse e cooperative bianche, i rapporti singolari per molti versi con la magistratura, e dopodiché c'è una terza parte invece del libro in cui si trattano dei temi scottanti degli ultimi tempi: da una parte Italy, Farinetti, dall'altra Libera, perché sapete che anche su Libera, cioè la cooperativa che si occupa dei beni sequestrati, l'antimafia e così via, sono stati sollevati dubbi e polemiche a cui poi Don Ciotti ha risposto durissimamente, e naturalmente si arriva anche alla fine del libro a ricapitolare le cose notissime sul business degli immigrati con le cooperative, quindi al centro delle indagini di Mafia Capitale. Quindi è un libro molto tra virgolette tagliente, e sicuramente a molti non piacerà e lo accuseranno di un pregiudizio negativo. Allora, siccome l'autore è con noi e io gli devo chiedere di parlare a lungo per tutta la durata della trasmissione dei contenuti di questo libro, io innanzitutto, nel presentarlo, dicendo il nome e cognome, Antonio Amorosi, che è un giornalista oggi, e nel ringraziarlo ricordo a voi tutti che lui è stato anche assessore al comune di Bologna una dozzina di anni fa, poi se n'è andato in polemica perché aveva rivelato Lui ha una specializzazione fin dai tempi dell'università sull'housing sociale, le case popolari, il patrimonio immobiliare come viene gestito dai comuni, e infatti gli diedero l'assessorato esattamente volto a questo fine. Se andò sbattendo la porta perché aveva denunciato un sistema che lui aveva trovato e che non lo conosceva per niente, praticato al comune di Bologna da 20 anni. Quindi insomma, è un combattivo, per così dire, un rompiscatole, quindi da questo punto di vista certo non piacerà al sistema di potere dell'Emilia Romagna. Comunque, grazie di essere con noi Antonio Amorosi. Questo Grazie a voi, grazie a te, Oscar. libro è pesantissimo, di la verità. In che senso è pesantissimo? Io ti Sì. ringrazio, l'hai letto, ho apprezzato veramente le tue parole. È il tentativo di fare un viaggio dentro un mondo invisibile, anche criminale, dei cosiddetti buoni, quelli che svolgono un'attività mutualistica e che aiutano, no? Nella realtà questo mondo che nasce da un grande ideale, che poi non era un ideale propriamente, come dire, comunista, ma anarchico, liberale, socialista dell'Ottocento, È anche cattolico, il movimento cooperativo è anche cattolico. cattolico, assolutamente, ha trasformato un'idea, cioè un bisogno, un dramma, che voleva essere invece trasformata in una capacità collettiva di risolvere quel problema, trasformato un dramma in un business, in un sistema di business. Cioè, come si può trasformare un dramma, la mancanza di alimentazione, la mancanza di energia, la mancanza di un bisogno, l'immigrazione, in un business? Ecco, il sistema cooperativo oggi è questo. E io cerco di, dal nord al sud, fermandomi nel cuore, che è poi l'Emilia Romagna, di affrontare questo mondo, facendo parlare gli interlocutori, cioè i protagonisti, esterno, ascoltatori esterno. Ma quante dozzine di querele pensi di portare a casa? Ma io aspiro a zero, ma Ti spiego perché, e questo sei poi entriamo nel soltanto merito documentato, ci saranno 400-500 note, No, documenti a no, monte. infatti è un libro documentatissimo, cari ascoltatori. Io non vorrei che, cari ascoltatori, voi cadeste in equivoco. Cioè, mentre è un classico della pubblicistica italiana nei decenni, la polemica, tra virgolette, di destra contro le cooperative rosse, ecco, qui non siamo in presenza di una cosa di questo genere qua, perché sennò io, devo dire la verità, non avrei dedicato una trasmissione a questo libro pugnace, perché ho lavorato anche in giornali di destra, come ti chiedevano di scrivere male per principio per Carlo De Benedetti, che ne ha fatto più di Carlo in Francia, ma a volte te lo chiedevano per principio. Un altro grande classico è parliamo male delle cooperative. No, qui il problema non è parliamo male delle cooperative. Qui il problema è che fin dalla confessione nelle prime 20 pagine di questa fonte, dove vengono descritti nei decenni lo sviluppo delle mazzette a finanziamento dei partiti, del sistema dei partiti, naturalmente sì, il PC, ma non solo il PC, e di come segmento per segmento si facesse opera per opera e di come i privati venivano portati dentro, i privati che erano esclusi da questa roba protestavano, venivano associati e a loro volta accettavano il sistema, per così dire. Questa è la descrizione di come in Italia da moltissimo tempo si fa finta di credere che questa sia una forma alta e nobile del mercato, ma in realtà vive, viene praticata e diffusissima sotto gli occhi di tutti una forma di negazione assoluta dei presupposti di concorrenza, trasparenza, libera formazione dei prezzi, eccetera, eccetera, che ha a che vedere con l'economia pubblica italiana, ma che confligge brutalmente, non solo con rispetto al codice penale, e questo lo vedremo, ma che confligge brutalmente con i fini dichiarati della cooperazione. Naturalmente io non intendo accomunare l'intero mondo cooperativo, però certo nel libro, Antonio, tu parli delle centrali cooperative in quanto tale, delle più importanti cooperative di costruzione e grande distribuzione italiana della storia del paese. Questo è il cervello, ti ringrazio di queste considerazioni, proprio per considerarlo una riflessione a tutto campo, non di destra o di sinistra. Queste sono oramai, come racconto o provo a raccontare nel libro, delle categorie totalmente superate. Le grandi centrali sono il cuore strategico di questo mondo, perché questo non è un mondo che si organizza in modo estemporaneo, è un mondo che pianifica delle strategie, e proprio le prime 20 pagine di Luca, nome, Nom ecco, de plume, insomma, è chiaro, come è sì, ovvio. che non è, devo contraddirti su un'unica cosa, che non è la persona a cui è dedicato il libro. Io credevo, avendo visto L, scusami, come errore mio. L'uomo mi spiega questo sistema sofisticato della tangente senza la tangente, come questo mondo che poi alimenta un bacino economico e politico di sinistra è riuscito ad uscire da Tangentopoli con un modello differente rispetto a quello a cui noi siamo abituati a pensare, la tangente, la mazzetta, l'imprenditore che porta i capitali, cioè porta dei soldi, del denaro all'imprenditore politico, perdono, all'amministratore, a convincerlo. No, non è questo. E per questo motivo lui mi spiega come queste migliaia di persone che poi sono radicate, diffuse sul territorio, sono riuscite a uscire da quella fase, vincitrici, e a costruire un modello che poi è stato in qualche modo applicato in buona parte dell'Italia, dove loro, come forza culturale e politica, controllano il territorio. Sì, ma qua si descrive una pervasività di questa rete, sì, che è spaventevole. Leggo una mezza pagina a chi è in ascolto, perché altrimenti non capisci. Qui a un certo punto, mentre si descrivono le trasformazioni dal vecchio sistema del PC, delle cooperative che pagavano la festa dell'unità, eccetera, eccetera, e si arriva un po' più recentemente. Allora leggo, qui sono in questo momento a pagina 17, cioè verso la fine della testimonianza iniziale della fonte riservata. Sono cambiate le imprese, lo Stato, la politica, il grosso del denaro adesso gira solo tra privati, sull'esempio di quello che facevamo noi già anni fa. Per questo dico che abbiamo fatto scuola, noi delle cooperative, il denaro lo facevamo girare tra noi. Non c'è reato tra privati. Per esserci deve essere provato l'interesse, l'appropriazione di qualcosa, e che è corruzione. Il politico, tra virgolette, beve dalla sua fondazione. Io che ricevo i soldi per realizzare un'opera, gonfio il preventivo più che posso, visto che mi pagherà babbo morto. Lavoro coi soldi delle banche, sposto a te che sposti a un altro, che sposta a un altro, che neanche sa come mi chiamo io. E tutto è rintracciabile. Il magistrato cosa può fare? Rintracciare la commessa principale, che è una grande opera dello Stato? Quello può essere un problema. Ma dietro ci sono centinaia e centinaia di spostamenti di denaro. La valigetta è una cosa superata. Lasci tracce. Anche con internet e i conti cifrati esteri lasci un segno. Invece noi ci siamo inventati questo mondo senza tracce, perfettamente legale, e che nessuno può inchiodare perché è perfetto. Bisognerebbe che i politici facessero le leggi ad hoc. Ma figuriamoci. Certo, le carriere si sono incasinate rispetto a un tempo. Il politico fa il manager, il tecnico del comune fa il presidente di una partecipata, l'imprenditore casomai fa il politico in qualche grande comune, non si capisce più niente. Bisogna fare i conti con la realtà. Il sistema è questo e garantisce di vincere le gare e portare a casa il lavoro da dividere poi tra le nostre imprese. C'è chi costruisce, chi si occupa delle forniture, chi del movimento terra, e una miriade di casi così, comune per comune, con commesse di milioni, l'energia, l'acqua, la luce, le pulizie. Ce ne sono di cose da fare. Ma qualcuno è mai andato a vedere se gli appalti che ogni comune assegna per milioni di euro valgono veramente tutti quei soldi? Diversa invece la situazione, conclusione, nelle regioni controllate dalla mafia, dove si mischia il livello di controllo del territorio con quello dell'appalto. E non ci si siede neanche al tavolo se non c'è un tramite. Ma noi lo sappiamo. Lo sappiamo che quelle 3-4 regioni le abbiamo lasciate in mano loro. E questi, una volta che sei in affari, se vai lì pretendono. Ma noi lo sappiamo che quelle regioni sono loro. Cioè, detta così, è una cosa agghiacciante. Antonio. Il paradosso è che la verità non lo dice solo lui, lo dicono anche altri che poi vogliono approfondire altri temi, ma non vogliono comparire con queste parole. Il dramma è che si è finto per anni che questo fosse un meccanismo virtuoso. Che fosse ma un stiamo parlando, cari ascoltatori, dell'8% del PIL? Sì, 151 miliardi di euro, grande come il PIL, il prodotto interno lordo dell'Ungheria, come Slovenia, Croazia e Bulgaria tutte insieme, cioè più stati europei, qualcosa di gigantesco che non si è voluto mai analizzare io avrei piacere che qualcuno a sinistra avesse la coerenza, la nettezza. Ma con tutto quello che descrivi, come fa? Significherebbe buttare a mare gli otto noni di pezzi della storia. Faccio una previsione: adesso racconteranno quanto sono cattive le cooperative, perché un'altra delle strategie, perché questo è un mondo che ha un costrutto strategico quando pianifica e si muove, e i media hanno una funzione fondamentale dentro tutta questa storia, perché ci hanno raccontato per decenni quello che oggi noi chiamiamo storytelling, la propaganda, cioè che da una parte c'erano i cattivi e dall'altra ci sono i buoni, da una parte ci sono quelli corrotti, sempliciotti, grossolani, dall'altra invece c'è questo mondo mentre invece è una tesi che tu combatti e smentisci coi fatti. Assolutamente, avendolo anche visto dall'interno in un'esperienza, ecco, che è durata molto poco, molto, molto, molto poco come tempo. Ma adesso vi faccio un esempio, no? Oggi passa nella totale, nel nulla dei media. Indifferenza. Sì, sì, l'abrogazione del reato di intermediazione fraudolenta di manodopera, il cosiddetto caporalato. Un articolo del Jobs Act, l'81, un'applicazione del Jobs Act, abolisce il reato. Quindi, cosa che non aveva fatto nessun governo nella storia d'Italia. Abbiamo criticato i governi democristiani, socialisti, il governo di D'Alema, quello di Prodi, ma Berlusconi. La tua tesi, Tagliente, che invece questo qua non l'ha fatto perché? L'ha fatto perché a un certo punto bisogna agevolare un meccanismo di funzionamento del lavoro in determinate zone. Allora, un minuto di pausa e torniamo con l'autore di questo libro. Il libro di cui stiamo parlando è Coop Connection, Nessuno tocchi il sistema, i tentacoli avvelenati di un'economia parallela, Chiare Lettere editore. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta questo giovedì 5 di maggio, cari ascoltatori. Abbiamo con noi l'autore di questo libro che a me ha colpito per la sua durezza. Io credevo di sapere tante cose, ma vista e raccontate così mi ha molto colpito. Il libro si chiama Coop Connection, Nessuno tocchi il sistema, i tentacoli avvelenati di un'economia parallela. Antonio Amorosi, che è con noi, l'autore di questo libro di Chiare Lettere, editore. Posso chiederti, a un certo punto tu leggi un capitolo ai rapporti con la magistratura, perché uno legge questa roba e dice, vabbè, ma qui c'è del marcio complessivamente distribuito un po' dovunque, ma com'è che, tranne rari casi che tu poi ricostruisci, eccetera, eccetera, sì, la magistratura non si scatena? Perché il cuore delle COP è l'Emilia, come racconta poi in alcuni passaggi anche Consorte. Oltre l'Emilia, pezzi della Toscana, l'Umbria, un po' le Marche, non c'è, diciamo, un cuore. Il cuore è lì. E lì non c'è mai stata un'indagine sulle COP. Se c'è stata, si è sempre, diciamo, inabissata e finita nel nulla. Ma in 70 anni, parliamo di 70 anni, così come non vi sono mai state indagini complessive sulla criminalità organizzata, né sugli amministratori locali, se non dal 2009 in poi. Perché le indagini sulle COP non è che fuori dall'Emilia non ci sono state, ci sono state. È lì che non ci sono state, ma è lì il cuore, o è lì che finiscono tutte le indagini. E l'Emilia Romagna rappresenta il DNA di questo mondo, con uomini, capitali, strutture, e la sintesi migliore di questa, del come mai non è mai accaduto nulla, ce l'ha data proprio il procuratore capo, l'ex procuratore capo di Bologna, che ha raccontato alle dimissioni, quando veniva criticato per la quantità incredibile di archiviazioni a cui dava seguito, quando si occupava di istituzioni in generale, per chiunque, ha detto che in Emilia non esiste separazione di potere. È una cosa impressionante. Io ho studiato Montesquieu e tutti sappiamo su cosa è fondata la nostra, diciamo, giurisprudenza occidentale. Per lui non esiste separazione di potere in Emilia, ma distinzione di potere. I corpi dello Stato sono distinti e collaborano insieme. Cioè, io penso che tanti politici italiani aspirerebbero a una cosa del genere. Però noi abbiamo invece una regione in cui la magistratura si indaga, si inabissa con i suoi fascicoli, magistrati che indagano se stessi, carabinieri che aprono cooperative nelle delle caserme, poliziotti sottomessi alle cooperative, finanzieri che dovrebbero indagare i sindaci ma che ricevono case in offerta dai sindaci stessi. Cioè, è un mondo a parte in cui si finge di scoprire improvvisamente che CPL Concordia era in Campania dagli anni 80. Io ho vissuto 10 anni in Campania, ricordo il post terremoto della Campania. CPL Concordia ed il TER erano quelle forze del mondo cooperativo che sarebbero venute, perché abitavo lì, a salvare i poveri meridionali sotto il gioco della camorra. Non si entrava negli appalti allora come non si entra adesso, non si siede neanche al tavolo, come ci racconta Luca e altri cooperatori, se non si ha un accordo con certi gruppi criminali in alcune zone, tanto più Casal di Principe, tanto più aree del sud ben oleate determinati meccanismi. Quindi questa scoperta, che bisogna ringraziare i magistrati di Napoli, però viene fatta nel 2014, cioè ci rendiamo conto di che cosa significhi. Cioè, pochissimi sanno, ad esempio, che Piazza Maggiore a Bologna è stata costruita anche grazie all'intervento della Camorra, della ICLA di Napoli. Poi l'opera è stata costruita, è stata realizzata dal Consorzio Cooperativo di Costruzioni, ma nei fatti Piazza Maggiore è stata ristrutturata grazie alla Camorra. Dov'era la Procura della Repubblica in quegli anni? Allora, il procuratore di cui descrivi molte imprese, si chiama Enrico De Nicola, era procuratore negli anni 2000, 2007, 2008, eccetera, anche la figlia è magistrata, eccetera, eccetera. Ma dico, tu ti sei confrontato mai anche con questi magistrati? Sì, certo, ho avuto dei confronti all'Atre su altre vicende, o conosco molti magistrati sia di Bologna che fuori da Bologna. Io dico solo questo a chi ci ascolta, questi sono dati ufficiali. L'ispezione ministeriale scopre che dal 1999 al 2008, in 10 anni, l'ispezione è venuta nel 2009, in 10 anni 2321 fascicoli della Procura di Bologna sono stati dimenticati in un armadio. Questo per dare forza di numeri a quello che vi ha appena detto Antonio Amorosi. Antonio Amorosi non ha niente contro il procuratore De Nicola. No, assolutamente. Però sono sicuro che nessuno di voi in ascolto si ricorda di ispezioni ministeriali in cui a Bologna, non nella vecchia Roma, Porto delle Nebbie, a Bologna, ispezioni trovavano migliaia di fascicoli dimenticati dalla procura. Non è esagerato dire, e lo dice, si può criticare per tanti aspetti Saviano, però bisogna ricordare che Saviano, già con Gomorra, ricordava che l'Emilia Romagna era stata costruita dai casalesi, ed è vero, nei subappalti delle cooperative noi troviamo negli anni la presenza costante e nei capitoli centrali del libro di una criminalità, cioè, organizzata. Questo diffusa. Per dire che alla fine quella testimonianza, quel pezzo di testimonianza di Luca all'inizio del libro che ho letto prima, cioè che ci sia stato nel tempo un raccordo tra le regioni invece in cui il controllo degli appalti, dei lavori del territorio è in mano alla criminalità organizzata, è proprio così. C'è uno scambio tra mondo della cooperazione che lavorerà poi in Sicilia e in cambio avremo la mafia siciliana a Bologna, ad esempio i famosi cavalieri dell'Apocalisse, qualcuno se li ricorderà, che erano cavalieri del lavoro e al tempo stesso afferenti al clan dei Corleonesi, sì, certo. Erano presenti in tante regioni dell'Italia del Nord, in una sola erano presenti tutti e quattro, perché erano quattro cavalieri del lavoro, l'Emilia Romagna, erano presenti in tante opere, i cooperatori di Reggio Emilia vanno in Calabria e l'Andrangheta va a Reggio Emilia, i cooperatori modenesi in Campania e i casalesi e la Camorra a Modena, con una pervasività. Ma tu stai dicendo che però di questi intrecci la politica è stata pienamente consapevole e avendone beneficiato, perché tu spieghi come nel libro. Nel 1995 la Direzione Nazionale Antimafia e il Ministero degli Interni inviano agli enti locali, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Bologna e gli altri enti, una relazione dove dicono che ci sono più di 600 clan operativi in Emilia Romagna. Dai 2000 ai 3000 soggetti. Pronto? Sì, sono muto perché i numeri fanno venire. Stiamo parlando di 20 anni fa, cari ascoltatori. Sì, di 20 anni fa. E la reazione è: si invitano gli enti locali a una politica di contrasto e di comunicazione alla popolazione di cosa sta accadendo. Allora, io la purtroppo. È uno? Uno studio che si chiama Città Sicure di 1500 pagine, che io ho letto anche allora, in cui vi erano 2 pagine dedicate alla criminalità organizzata, anche nello studio. Allora, io purtroppo ho finito il tempo, ma io avessi una televisione ci farei 3 ore dalla prima serata in poi su questo libro, fomentando delle risposte da tantissime persone che tu citi nel libro, perché continuo a dirvi, ascoltatori, Coop Connection, Nessuno Tocchi il Sistema, i tentacoli avvenati in un'economia parallela, Antonio Amorosi è l'autore. Ho tentato di darvi un'idea del perché è un pugno allo stomaco questo libro, e che devo dirvi, se è tutto così non abbiamo capito un pezzo fondamentale della storia italiana, e guardate che qui è pieno di testimonianze, quindi io mi auguro di leggerlo. Non era una trasmissione di propaganda, se non per il libro, ma non è una trasmissione a tesi, e spero purtroppo che molti di voi non pensino questo. Continuate con Radio 24, appuntamento di mattina alle 8:15 con me, con Alessandro Milan, e grazie Antonio Morosi.